10 1 1 1 è la combinazione, cos'è? Il superenalotto. American football. Eh? Ah, American. Baseball. Ah, ok. Baseball, cioè? È il baseball. Ok, poi? Basketball. Basketball. La pallacanestro. Quindi basketball. Basketball. Poi? Boxing. Vabbè, la box. Boxing. Ma che lingua è? Golf. Golf. Golf, ma sono gli spagnoli questi. I cescate. I cescate. I cescate. Dai, i cescate. È una nuova legge di Monti. Ah, l'ice skate. Ok. Ma cosa sarebbe? Attenzione, poi? Skateboard. Vabbè, lo skateboard sembra mia nonna quando si... Soccer. Allora qui siamo a Bologna, cos'è? No. Qui è una... ho capito. Soccer. Ma questo... Ah. Soccer. Ma insegnano il bolognese anche con questi smartphone. Soccer. No, vabbè. Questo programma vi è presentato da... Wunderwaffer. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. Cosa, bentornati? Sì, un po' tipo velen, no? Bentornati! Velen, e chi è velen? Ma come chi è velen, Drago, velen? Ma velen è una tossicologa, ma cos'è no, velen? È quella della farfallina tatuata. Ah, no? Belen, ma perché no. Dici velen? Perché lei dice velen. Ma che ne sai tu cosa è dice? È sudamericana, dai, chi parla spagnolo non sa distinguere B e V, no? Dice sempre a caso e sempre sbagliato. Vabbè, anzi, bavè. Allora, bavè, bavè. Cioè, giusto. Oggi cominciamo subito con una mia dissertazione di 9 minuti e 54 secondi sul tema lunedia apatia. No, non è vero, non cambiate frequenza, come? Cari ascoltatori. Non scherzo affatto. Kappa sta scherzando. Io sono Sario. Non la dissertazione Sario. Si articolerà seguendo quattro punti di vista, cioè l'incidenza del tasso di umidità nella valutazione complessiva di un lunedia. La misurabilità dell'apatia del lunedia tramite screening del lobo occipitale. Ma come? L'analisi statistica dei suicidi commessi a livello mondiale nella giornata di lunedia a partire dal 1948 a oggi. E infine il vero nucleo della dissertazione. Ah, pure il vero nucleo. E quale sarebbe? Il lunedia fa schifo. Ah beh. Il lunedì è quindi associabile alla luna. Der Mond in tedesco. Attenzione, si tratta di un sostantivo maschile, la luna, der Mond, è un simbolo religioso che nelle antiche civiltà teutoniche rivestiva un ruolo diverso da quello che invece aveva sulle sponde del Mediterraneo. Drago. Vabbè, ma tu certo non hai bisogno di contare le pecore per dormire, neanche le capre. Sì, pronto? Bruno! Pronto! Ha fatto di suoneria, Bruno! Ho capito, pronto, parlo chi parla? Con il signore di K und Drago. Sì, cioè sono solo Drago, però va bene lo stesso. Chi parla? Vi parla direttore generale marketing di Wunderwaffer. Ah, buongiorno. Ja, guten Tag. Benvenuto. Io chiamavo per sentire se tutto di a posto, se fa tutto sì. Normale. Sì, qui tutto bene, grazie, stiamo proseguendo. Qui molto meno bene però, perché Wunderwaffer AG, che vuol dire? Aktion Gesellschaft. Bravo, non è molto contenta di vostro lavoro. Davvero? Davvero. No, ci dispiace, cioè vedremo di rimediare adesso. Sì, sì, molto meglio se rimediare. Per voi intendo che è meglio. Cioè, ma in che cosa non andrebbe bene il nostro lavoro finora? Cioè, dunque, dire. Allora, tu fai di un italiano. Noi interessano le vendite, eh? Sì, vendite no bene. Quindi voi siete italiani. Beh, sì, sì, quindi... c'entra. Niente, comunque di a tuo collega di capa che so che sua figlia ti piace di tanto di Wunderwaffe. No, come scusi, non ho capito questa. Mm-hmm. So anche che scuola ti frequenta. No vabbè, capisco sempre so meno. Anche di orari, di trasferimento, di andare, ma, di danza, di judo, so tutto. Sì, ma non è un segreto, cioè ognuno ha una vita, cioè voglio dire, perché deve dire questa come cosa? Sta sua mamma anziana, signor Drago? Ma bene, grazie, lei conosce la mia anziana mamma, non ho capito. Molto bene, meno male, perché io spero vivamente che tutto continui di andare bene così, allora facciamo che va tutto bene così. Vabbè, però scusi, io non però ho capito. Però voi dovete fare di grande attenzione. Il tenore della telefonata non l'ho capito sinceramente. Lululu. Eh? Lululu. Lululu. Vabbè, meno male che sono svizzeri. E ora bambini, ricreazione. Voglio bene, ma questa scuola è vuota senza di te. Mi manca l'aria per te. Mi sono commosso anch'io, ma volevo dirti, all'esterno, sì. Questa qua potrebbe sembrare a delle menti ottuse, una canzone vagamente gay, no? Ma gay nel senso migliore del termine, io non ho nessuna discriminazione verso le... ognuno fa quello che gli pare. Alberto, non scusi. Detto questo, ma l'amicizia, scusa, ma lasciami finire. Detto questo, quando mi riguarda da vicino, preferirei che anche il sospetto, leggerissimo, vaghissimo, non ci fosse. Che poi ognuno ha i suoi gusti, ma io ho i miei, e voglio che sia chiaro, quindi magari... Che vuoi che la facciamo cantare a mia sorella? Eh no, ma sei tu la star, cioè tu non hai capito, prima devo cantare, io ho scritto la canzone su tua sorella, ma cosa c'entra? No, mia sorella al limite fa la corista, no? No. Devi cantarla tu e cambiamo il nome. No, vabbè, non ci siamo proprio. Allora, se cambi il nome della canzone, allora, cambi pure il nome tuo. Allora, facciamo così, sai cos'è? Tu cambia il nome. Può anche darsi che questo sia... Troviamo un soprannome allora. No, ma che gli va bene così? Potrebbe essere lì a chiave del successo, la provocazione. Certo, tutti scrivono le canzoni per... Sono parole di bambini, no? Ti voglio bene, non è che ci sono delle cose dietro. Ma scusi, io non posso scrivere una canzone per mio fratello? Sì, in effetti. Salvo che, siccome può succedere... che qualcuno dica, ah ma allora quello lì dicono, perché il frontman sei tu, a me nessuno mi conosce, quello lì magari è gay. No, io... Non ti importa questo... Lo capiscono da soli che non sono gay. Beh, ma non tanto gli altri, i gay. Ma il problema sono gli altri. Non c'è problema. Comunque, tu ti assumi le tue... Io non ho problemi. Tanto a me non mi conosce nessuno, io ricevo il bonifico e poi smisto quando c'è utile, no? Benissimo. Quindi... tu sei il frontman, anch'io, io zero rivendicazione. Se faccio un'intervista anonima, dico che ognuno può fare quello che vuole. Sì, io cambio il nome. Magari lui è gay? Io contento cambio... lui, magari e lui sei tu, no? Sì, ho capito. Chi lui? Dobbiamo montare il caso, no? Sì. Ma montiamo il caso, prima sui giornali e poi sui giradischi. Non so come se questo concetto... Cambiamo il nome, no? Ma non il nome della canzone, il nome mio. Alberto rimane Alberto. Voglio bene, Alberto. Ho capito, ma nome, ma tu... Che la mia scuola senza di te. Non vedi che parla sola. Non mi commuovere che sto dicendo una cosa seria. Oh, piuttosto cambiamo il nome. Mi chiamo io. Un altro nome, non Ioris. Sì. E su YouTube ti metti una maschera, per dire. Vai su YouTube, no? Ti vedono. No, non ce n'è problemi, Alberto. Allora ti ho sfondato. Poi io ti ho detto... ti faccio la canzone, è la prima canzone, visto che sei stato il primo che poi mi ha dato la possibilità, sei il mio produttore, il mio manager. Te posso dedicare una canzone o no? No, questo sarebbe stato piano. No, poi mi tocca il cuore. Quando ci faranno le interviste? Non te ne approfittare. Io dirò che la canzone l'ho scritta al mio manager perché ci voglio bene. E lo dicono, chi è il tuo manager? E nessuno lo sa. Si chiama Alberto e parla sempre di gay. In me la pucchiacchia, tutte fratte le pupaiacchie. Difficile anche, no, da articolare. Poi nel me franne la pucchiacchia, in me la bucchiacchia. Restiamo in clima napoletano e vediamo l'appuntamento a domani. Andate su Facebook, vedete, guardate i nostri video, condivideteli, commentateli, non pubblicate le vostre poesie, le vostre fotografie così gratis, messe così, perché poi noi le cancelliamo, perché non è ammessa la promozione di materiale artistico self prodotto se non è prima, come dire, confermato da Barone. Quindi, bucchia. E si finisce a taralucci vino, no? Anzi, te fratte, in te fralle. Cozze, un'impepata, diciamo. L'impepata di pucchiacchia. Cozze. Ah, no, un'impepata di pucchiacchia. Te la mangi tu. Kappa. Kappa.